Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. E ci siamo, sono le 3:06 della notte, sabato notte, qui a Resto Radio Convento in compagnia di due calciatori, è possibile? Siete calciatori? Come vi chiamate? Paolo e Mirko. Mirko. Ecco, e poi in mezzo abbiamo una fan, giusto? Sei così, fan di questi calciatori? Sì. Come ti chiami? Monica. Cosa hai visto in questi calciatori che ti ha colpito particolarmente? Occhi luccicanti. Occhi luccicanti. Sguardo intenso. Sguardo intenso. Poi? Dei bravi ragazzi. Dei bravi, sì, bravi ragazzi, tipico. Di fiducia. Tra l'altro non li conosci neanche, vi siete conosciuti prima di entrare. Due secondi fa, perfetto, mi piace questa cosa. Ecco. C'è stata subito della chimica tra di noi. Attrazione. Ah, davvero? Sì. Quindi... Monica, sei attratta da Mirko e Paolo, cioè c'è una doppia attrazione. Sì. Ah, cioè, sei single te, Monica? Yes. Ragazzi, Monica, voi ragazzi siete fidanzati, siete single? Io sono fidanzato. Quindi qua c'è, cioè, come occhio, la calamità, non c'è più attrazione. Mentre Paolo, sei tu? No, Paolo. Ho sbagliato. Mirko? No, io no. Attenzione, il colpo di scena. Forse potrebbe esserci. Ma anche Paolo so che è part time fidanzato. No, io sono felicemente. Ma bravo, sì, bravo. Dai ragazzi, occhio non vede, cuore non duole. No, ma l'occhio vede. Ah, l'occhio vede, tra l'altro. Ecco, perfetto. Lo vede. È video sorvegliato speciale, ecco, il nostro Paolo, quindi si astiene totalmente. Ma che fai? Fai dei segnali? Sì, stavo chiedendo a lui se mi chiamava la mia amica là di fuori. Ah, ok, lui tra l'altro ha subito recepito quello che state dicendo. Ecco. Lui è il vostro amico, come si chiama il vostro amico? Marco. Dillo al microfono. Marco. Ok, Marco lui è molto rapido dice... Ha capito cosa devi comprare? Due pere? Era un segno tipo devo andare a comprare due pere? Credo che vogliono vedere delle pere, ecco. Niente da fare, ragazzi. Ecco, i filosofi fuori, chi sono i filosofi fuori? Il resto della... Quello lì è il nostro ex mister. Ex mister, l'avete... Claudio. È stato esonerato. Ah, l'avete esonerato, perfetto. Come si chiama la squadra di calcio? AC Camunia. AC Camunia, ok. Mentre... Nuova Camunia. E tu ormai, Monica, sarai tifosa della AC Camunia? Assolutamente sì. Dove sei, Monica? Di Brescia. Di Brescia. Brescia. Specifichiamo nave, ecco, nave. Ecco, no, perché così Mirko sta prendendo giusto le coordinate. Quanti chilometri sono da dove abiti? Circa un 100 chilometri. Oh, 100 chilometri vi separano, Monica? Sì, tranquillo. Quindi è nato un amore. Raggiungi Paolo, tu che ci stai a fare qua? Io, saluto. Questi stanno broccolando. Cioè, colpo di scena. È la prima intervista accoppiamento che mi capita nella storia. Cioè, sono entrati da sconosciuti, si stanno conoscendo in radio. Ciao, grazie. No, Paolo, aspetta, no, che dobbiamo fare. Paolo, fermati. Dobbiamo fare il gran finale con un esperimento radiofonico incredibile. Perché stasera è la serata degli esperimenti. Ho intervistato ragazze prima di Bologna e mi hanno fatto un rutto in diretta alla radio. Ecco, tra l'altro, quelle fini che guardavamo prima. Ecco, a voi spetta un'altra performance, però. Sul finale, adesso dobbiamo andare avanti, perché chiedi qualcosa a Monica, cerca di conoscerla, perché non sai ancora niente di lei. Cosa fai nella vita, Monica? Disoccupata. Perfetto, quindi ho un sacco di tempo per te. Ho tutto il tempo libero che vuoi per te. Per te, contentissimo Paolo di queste cose. Però, ecco. Paolo è contento. Paolo disperato, gli è venuto un mal di testa incredibile. Che fai, pensi? Ragioni? Sì, stavo... Tanto non è mai successo nella vita di Paolo che ragionasse, ma stasera... Esatto, è la prima volta che sente qualcosa. Ha detto, sono le 3:10 del mattino, quasi che mi metto a ragionare, che mi sembra... Io sento bussare sempre da qualche parte, non aprite, non rispondete, non aprite agli sconosciuti. Non aprite quella porta. Ecco, non aprite quella porca, hai detto? Una porta. Ah, ho capito, non aprite quella porca, tra l'altro Paolo veramente guarda film porca. Culturali, ecco. Ecco. Penso a Mirko nel ci caso. Mirko fa l'usciere di giorno, come lavoro? Fai l'usciere, lavori in un hotel, in un albergo? In una casa di cura mentale, faccio l'usciere e cerco di non far uscire la mente. Ah, bravo, perfetto, mi piace questa cosa così. Bello. Quindi, perfetto. Che c'hai mal di denti adesso? Io avevo mal di testa, c'è Paolo che ce li attacchi. Il momento più bello della mia serata. Ma vi assicuro che era sano fino a 10 minuti fa. Prima di entrare in questo luogo, praticamente, cioè, è successo tutto varcando questa soglia della nostra Che fai? Se l'avessi saputo prima sarei entrato prima. Ah, dici, avresti anticipato. Dici, ma perché stare in giro ballando? Sto qua chiuso nella radio, nella ristoradio. Divertentissimo, radio. Divertentissimo. È bello, né? Con Fargetto poi. Fargetto, sono io? Sono Sandrino io. Però poi Fargettino. No, sei commosso anche. No, ragazzi, sta piangendo. Attenzione, no, è partito. Per me no, attenzione, no, sta lacrimando anche. Cioè, è partito il processo di beatificazione di Paolo. Hai paura della tua ragazza? No, che tra l'altro è l'unico. Come si chiama la tua ragazza? Non la conosco. Federica? Marta. Dalle gare? È Marta dalle gare? No? Marta, che saluto con tutto il cuore. Una ragazza fantastica. Da quanto hai questa relazione con Marta? Un paio d'anni. Un paio d'anni. Attenzione, colpo di scena. Non l'hai mai detto? Perché non l'hai detto, Mirko? Devi dirglielo a Mirko. Ti vedo una volta all'anno, non è che ti dico tutti i morti e miracoli della mia vita. Ma io ci tengo alla tua vita, alle tue relazioni. Solitamente quando ci vediamo ti ribalto il caffè addosso e basta. Perfetto, mi sembrano dei saluti così belli, mi piace questa cosa. Ecco, un caffè macchiato si chiama in questo caso. Sui miei pantaloni. Esatto, è quello, è il vero caffè macchiato, è così, ecco. È macchiato sui tuoi pantaloni. Intanto vedo lo sgomento di Monica perché non capisce cosa dicono questi camuni. Ma sono molto strani. È normale. È normale. Sarà dovresti provare la vita in la vita. Camuni. Tra l'altro mi giunge un'informazione che Mirko, quando ti verrà a trovare a nave, sì, ecco, ti porterà una rosa. No. Che bianca, rosa, la rosa camuna. La rosa camuna, ragazzi, che cacchio. Ma dai, ma ragazzi, ma dobbiamo dirti tutto. Ma che cacchio, Mirko, ma dobbiamo dirti tutto. Ti presentare con la rosa camuna. Sopra la rosa camuna. Lui ci mette sempre quel pizzico di romanticismo sul formaggio, Esatto. E poi andiamo a cena, vero? Naturalmente. No, che cosa, che cena? Lui tira fuori lo spilatino. Perché lui è fornaio, e vi fate pane col formaggio. Mi spalmi la rosa. Mi piace come programma. Mi spalmi la rosa camuna sullo sfilatino. È per forza. Ma non sai spalmare bene. No, quello devi farlo tu. Attenzione. Mirko prende già indicazioni. Dice: no, perché non è che mi faccio 100 km per niente. Devo già sondare. Quello che. Mister dice: dai, allora devi spalmare così. Vedete dai gesti che dici: bisogna spalmare così. Vedi? Tra l'altro ci sta ascoltando in diretta perché mi ha fatto. Così, a scappeggio. No. È intelligente, è sagace. Colpo di scena, il mister è intelligente, è una cosa rara anche questa. Va bene? Per questo l'avete esonerato, era troppo intelligente. Sì, era trappattoni. Ecco. Cos'è questo? Questo non mi sembra tanto intelligente. Tira il filo, fa dei segnali. Quel segnale mi sembra di conoscerlo, Monica, ti dici qualcosa quel segno? Secondo te cos'è questo, Monica? Non so, guarda, non voglio essere volgare. Ma stanno facendo tutti lo stesso segno. Quello fa. Quello, lui fa lo stesso segno. Mi sembra segno. La Cuccarini, ma è quello con vola. Ve la ricordate? La cantiamo? Vola. Con quanto fiato in gola? Dai. La notte vola. Paolo si astiene. In tutta l'intervista si è astenuto. Ha solo riso. Vola con tutto il fiato in gola. La notte ti consola. Dai Paolo, qua. Ecco, tra l'altro l'abbiamo bene, trascinato con la forza. È proprio brava Monica, dai. No, sì, no, è brava. Davvero divertente. Brava. Questo cos'è, nuovo. Ragazzi? Questo cos'è? Come si chiama? Questo si chiama Marco. Esatto. Marco 2. È bello, sono dei martellatori, cioè ci stanno bussando. Perché Monica sono carpentieri. Ecco, sono tutti carpentieri. Quello bussa senza manico, cosa starà bussando? In realtà lui è pizzaiolo. Carpentieri oppure piastrellisti. Ecco, il pizzaiolo della pizzeria, dov'è? Che magari qualcuno vuole. Pizzbon a Edolo, ok, vi aspettiamo. Miglior tutti. Pizza della Valcamonica. Pizzbon di Edolo. Ok, giusto per fare pubblicità. Quello cos'è? No, ma sono tutti strani questi. Non riesco a seguirli. Sono tutti affamati, anch'io. Più che altro, cioè, hanno praticamente fame. Hanno fame. Si sono dimenticati di tutto il locale, di quelle gnocche che stanno ballando sul cubo. Sono qui che guardo. Quello vuole il calippo. Io vedo solo Papa Voitila che balla sul cubo. Ecco, anche non ne vedo. Tra l'altro, assomiglia a Papa Francesco. Però lui lo vede come Voitila, però assomiglia a Francesco. Però va bene, è lo stesso. Sembrano degli zombie i vostri amici. Questo perché si gratta le ascelle? No, quello è un po' rude. È rude. Sì, non aprite quella porca, mi raccomando. Che se questi entrano siamo rovinati. Siamo morti tutti. Esatto. Che dobbiamo fare anche il gran finale perché tra l'altro erano 5 minuti, sono già 10 minuti che stiamo parlando del nulla. Il tempo vola. Esatto, è stato bellissimo. Tra l'altro hai conosciuto Monica o non l'hai conosciuta? sto cercando di conoscerlo, ah, diciamo. Esatto. Continuo a astenermi. Ecco, lui, se Paolo continua a astenersi, perfetto. È bello, ha anche girato la schiena. No, c'è anche girato la schiena, tra l'altro. Stai con noi, Paolo. Dai. Paolo. Paolo. Allora, diciamo, allora, Monica, devi sapere, mi dicono gli amici, i compagni di squadra. Monica, devi sapere che i miei compagni di squadra mi hanno detto che Paolo gira spesso la schiena a tutti. Davvero? Soprattutto nelle docce. È successa questa cosa? Mi piace girare la schiena e poi inclinarsi in circa 90 gradi. C'è quella saponetta che non riesci a tenere in mano assolutamente. Continua a scappargli in mano. Abbiamo confermi la notizia, Paolo? Sì, dietro di noi, confermo. Siamo attaccati da tutti i fronti, Non usciamo da qua, che sennò è la fine. Hai un buon occhio, però, È perché ha visto i vostri occhi lucenti. No, ho riconosciuto uno fuori di testa. Quindi Monica ti ha colpito l'occhio lucente di Mirko? Sì. Mirko, cosa ti ha colpito di Monica? La classe di una donna così. La classe di una donna così. E basta? E gli occhi, no? E gli occhi? Gli occhi. Ha due grandi occhi, a Monica? Assolutamente. C'ha due grandi occhioni? Proprio di quei begli occhioni che vorresti sempre vedere. Ecco. C'è anche un neo sulla palpebra, sei notato. Due, uno da una uno su una palpebra, uno sull'altra. Per non fare un tolto. Non si fa torto a nessuna palpebra qua. No. Esatto, quindi. Esatto. Lui, bravissimo. Tanto lui è attento alle palpebre più che agli occhi. Cioè il primo ragazzo che guarda le palpebre e non gli occhi. Bravo Mirko. Ho visto che l'ha notato anche Paolo, anche se era girato. Mi sono girato nel frattempo e ho visto. Perfetto, è bellissimo questa cosa delle. Quindi a te ti ha colpito le palpebre e a te ti ha colpito gli occhi. Insomma, La faccia da bravo ragazzo, perché si vede che è un bravissimo ragazzo. Confermi Paolo che mi dico un bravo ragazzo? Confermo, bravissimo ragazzo. Bravissimo ragazzo, quindi. Grazie Paolo. È quasi da sposare? Ma Dio. Non esageriamo? Non esageriamo, però a piccoli passi. Esatto, non portiamoci troppo avanti. Esatto, a piccoli passi ne possiamo parlare. Allora, facciamo così. Monica, prometti che dai il numero di telefono a nostro Mirko? Diamolo in diretta, dai. Lo diamo in diretta? Dopo il pubblico a casa diventa un hotline. Hotline su Monica. Bippiamolo. Ecco, glielo diamo in privato. Io ci conto. Ecco, lui ci conta. Vedi, Paolo, perché noi cosa vogliamo? Vogliamo che tra un X tempo torneranno qui e ci diranno: noi abbiamo deciso di sposarci, ecco, una cosa del genere. Cosa dici? Al prossimo addio celibato della nostra squadra, ecco. Monica e Mirko. Proviamo questo esperimento. Però l'esperimento che volevo provare per concludere l'intervista in Ristorante Convento è: siccome prima sono riuscito a far ruttare due ragazze finissime, questa volta voglio provare a concretizzare un accoppiamento in diretta, quindi un bacio a stampo in diretta. Stavo già preparando il rutto, cazzo. Attenzione, io ormai ho sentito, è passato. Ho sentito Mirko che si è toccato anche il pancinetto. Forse ci può fare anche la scoreggina in diretta, ma no. Io volevo appunto concretizzare questa intervista con un piccolo bacio a stampo col saluto, va bene? Loro si stampano e noi salutiamo, va bene Paolo? 3, 2, 1, gli amici da casa che stanno ascoltando, assistete in diretta al primo bacio a stampo della radio di due persone che sono entrate e non si conoscevano. Vai Mirko? Dai. No, più lento però, aspetta, no, non abbiamo avuto neanche il brivido blu. A rallenti. Avvicinatevi piano piano. Ok, futuri sposi Mirko e Monica, abbiamo deciso noi. Ciao Paolo. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Da chi? Da Monica. Ciao a tutti ragazzi, da Mirko. Ciao.